Allora, benvenuto a tutti quanti, grazie di essere venuti. Questa sera abbiamo il piacere di avere con noi il professor Alberto Giacobbi. Prendo il microfono. Non lo uso mai perché dovrei staccarlo da questa cosa. Poi avete sperimentato cosa significa. Allora, se portate pazienza un minuto, cerco di parlare a voce alta e poi cedo la parola al nostro relatore. Professor Alberto Giacobbi è già venuto alcune volte qui in biblioteca, abbiamo il piacere di incontrarlo di nuovo e anche quest'estate ci ha aiutato a trascorrere un'estate all'insegna della lettura e degli incontri qui in biblioteca. E è venuto in luglio, mi sembra, vero? In agosto, ecco, quindi ci sta dando una mano in quello che è la nostra missione della promozione alla lettura, della conoscenza della storia moderna e contemporanea e quella in particolare legata al nostro territorio. Dopo anni, dopo aver dedicato una vita alla scuola, il professore adesso lavora e collabora con l'Istituto di Ricerca Storica di Belluno e ha un'attività anche, diciamo, bibliografica molto impegnativa. Questa sera l'argomento sarà appunto il fronte delle Dolomiti. Ci stiamo avvicinando tra l'altro all'anniversario, al centenario dell'inizio della Prima Guerra Mondiale, quindi insomma c'è tutto un fermento anche di iniziative e siamo molto contenti che anche la biblioteca in questo possa, col suo aiuto e con l'aiuto anche di altri appuntamenti che via via arriveranno, riapprofondire, trovare di nuovo delle occasioni per approfondire questo argomento. Approfitto sempre per segnalarvi la cartolina con i prossimi appuntamenti che avete sulla sedia, qualche modulo di iscrizione se qualcuno di voi avesse piacere di iscriversi è tutto gratis, ma entriamo in contatto con più persone. E soprattutto vi segnalo l'appuntamento anche di mercoledì 16 che sarà la mattina. Ecco, facciamo un appuntamento la mattina con la presentazione del libro Gli animali nella nostra vita, presenti Eugen Galasso e ci saranno delle letture anche animate. Ringrazio ancora il professor Giacobbi e ringrazio a voi della vostra attenzione. Grazie. Grazie. Grazie. È spontaneo a questo punto ringraziare la direttrice e tutto lo staff che la circonda che hanno consentito intanto al sottoscritto di effettuare ben 3 sedute con questa in questo centro culturale che io ritengo di grande valenza etica, educativa e organizzativa. E ringrazio tutti, come dicevo, e questa sera, come voi siete a conoscenza, parlerò un po' del mio libro. Non è un riassunto della Grande Guerra, ma ci sono appunto delle indicazioni che io ritengo estrapolare dalla vita comune ed inserirle in un contesto bellico, qual è stata la Prima Guerra Mondiale. Qui il settore è circuito alle Dolomiti orientali. La guerra, come vi sapete, ha avuto una estensione geografica notevole, insomma, si parla del fronte occidentale, dove naturalmente è stata molto più cruenta di quanto lo fosse il fronte orientale. Si sente? Accomodarsi che così. No, ma si è detto che si sente quel. Se si accomoda. No, perché sembra la caduta degli dèi quando così si. No, adesso abbiamo spostato la cassa così. Va bene. Quindi stavo dicendo che non è solo un riepilogo, un riassunto, una sintesi delle vicende belliche che hanno caratterizzato 30 mesi di guerra, perché sono stati 30 mesi di guerra sul fronte alpino. Voi sapete che dopo lo sfondamento a Caporetto da parte degli austro-tedeschi, l'esercito italiano dovette ritirarsi dalle cime, da tutte le creste alpine, cominciare da ovest fino a, naturalmente a Tarvisio, eccetera, le creste carniche mi riferisco, dovette ritirarsi naturalmente in pianura e quindi sul Piave e sul Grappa. Perché la prima domanda che noi ci facciamo dovrebbe essere questa: perché la guerra? Allora, questa domanda non se l'ha fatta il popolo, se l'ha fatta così, certo, perché il popolo non è mai stato chiesto al popolo il parere o il consenso di fare una guerra, perché il popolo non è fatto per fare la guerra, ma per vivere in pace. quando in modo artificioso si inseriva nelle coscienze dei popoli un odio viscerale nei confronti degli altri o di chi apparteneva a un'altra congregazione, un altro gruppo, un'altra naturalmente disposizione politica, questa introduzione si sente? Forse è meglio così. Così si sente meglio, no? Abbiamo evitato con raggiro anche la conflagrazione. Allora, scusate, mi siedo perché insomma stamattina che sono in piedi. Dicevo che i opposti schieramenti avevamo, come vi sapete, troppo alto. Troppo alto. Sì, beh, sembra di essere a Berlino per 36. Così? Sì. Mi sentite? Sì. Sì, quando nel 1914 l'Italia uscì dall'alleanza con gli imperi centrali, da cui ebbe un grande vantaggio con l'alleanza, soprattutto dalla Germania, dal punto di vista soprattutto della rivoluzione industriale. Nel 1914, voi sapete, il 28 giugno, ci fu l'assassinio dell'arciduca Francesco Ferdinando, erede designato al trono austriaco. Non è che poi Francesco Giuseppe dispiacque tanto, a quanto siamo venuti a sapere. Comunque sia, quella fu la ragione ufficiale, ma le vere ragioni sono molteplici. Ci fu la creazione del panslavismo, quindi in funzione naturalmente pro-russa e anti-austro-tedesca. Ci furono naturalmente questi schieramenti che si cercavano in qualche modo di contendere gli spazi. La Germania contendeva all'Inghilterra il monopolio sui mari, ma l'Austria, una volta perduto Lombardo-Veneto, si rivolse ad est per ampliare naturalmente le proprie influenze verso est, dove incontrò naturalmente un muro, soprattutto nel panslavismo, sostenuto dalla Russia. E qui pensiamo sempre nella Russia zarista, non in quella sovietica. Sapete, con la rivoluzione di ottobre del 17 ci fu una trasformazione totale dell'assetto politico, costituzionale e istituzionale in Russia. L'Italia nel 14 dichiarò la propria neutralità, ma era una neutralità fittizia, perché dal 14 al 15 si preparò per costruirsi un esercito che non aveva precedenti nella storia nazionale. E bisogna dare atto al generale Cadorna che si realizzò un abile, naturalmente, costruttore di apparati militari. Il 25 aprile del 1915 l'Italia sottoscrisse con intesa, soprattutto con la Francia e l'Inghilterra e la Russia zarista, un patto in forza del quale avrebbe lasciato gli imperi centrali e aderito agli obiettivi politici, economici, geografici e militari dell'intesa. Questo il 25 aprile, allora c'era un certo Imperiali, Conte Imperiali, che era ambasciatore italiano a Londra, con l'impegno di dichiarare guerra all'Austro-Ungheria. Quindi un settore meridionale all'interno della comunità del continente europeo che avrebbe dovuto impegnare gli austro-tedeschi distogliendoli di altri settori. Quindi un vantaggio notevole per le potenze dell'intesa. Ma questo naturalmente avvenne avendo in cambio però le potenze dell'intesa sottoscrisse che l'Italia, una volta entrata con l'intesa, avrebbe ricevuto, se la guerra fosse stata vinta contro gli imperi centrali, intanto il Tirolo meridionale, dove ci troviamo adesso. E lo dico chiaramente come storico: l'Alto Adige non c'entra niente, non si chiama Alto Adige, si chiama Tirolo, e il Tirolo meridionale, non che lo dica io, fu una forzatura di Napoleone, fatta propria poi dal fascismo, ma questa è una parte del Tirolo che è stata staccata dal resto del Tirolo nel 1918, quando il conflitto finì. Questa era l'intesa. Poi, naturalmente, un protettorato sull'Albania, poi l'Istria, alcune concessioni minerarie nell'Asia Minore e via dicendo, e poi concessioni anche coloniali nell'Africa tedesca. È chiaro che l'Italia naturalmente poteva evitare anche la guerra con l'Austria-Ungheria, tanto è vero, allora c'era Giolitti al potere prima ancora di Shalandra. Shalandra era il presidente che dichiarò guerra, allora c'era Sidney Sonnino che era un guerrafondaio, c'era Cadorna che era naturalmente un militarista d'eccellenza, poi c'erano i futuristi che soffiavano, a cominciare da Marinetti, Gabriele D'Annunzio, che diceva, beh, socialisti riformisti. Quindi diciamo che un'Italia in cui il Parlamento era abbondantemente a favore della pace si trasformò in un Parlamento bellico. Fu tutta una serie di circostanze che trascinarono l'Italia a dichiarare guerra all'Austria-Ungheria quando l'Austria aveva fatto delle concessioni, per esempio il Trentino l'avrebbe assegnato all'Italia purché rimanesse neutrale. Forse anche la Venezia Giulia, ma lì si può anche discutere su questo. Ma ci fu all'interno del paese la componente bellica che prevalse su quella naturalmente pacifista, cioè le colombe dovettero soccombere. E la guerra doveva essere una guerra travolgente. Pensate che nel 1915, quando il 24 maggio l'Italia dichiarò guerra all'Austria-Ungheria, il grosso dell'esercito austro-ungarico si trovava sul fronte Galizia, sul fronte orientale. Quindi non era una cosa proprio troppo corretta, insomma, no? E qui c'erano solo i gendarmi, c'erano i pompieri, c'erano i territoriali, c'era qualche distaccamento di Scizia che non potevano reggere di fronte a una quarta armata del generale Nava che poteva spazzare tutto quello che voleva. E allora ci si chiede, ci siamo chiesti noi storici, e abbiamo trovato una risposta. Perché la quarta armata non si mosse più di tanto? Si disse che Cadorna, il capo supremo, si lurò Nava per le sue perplessità. Ma il fatto è che le ragioni furono ben diverse, perché la quarta armata aveva tutte le carte in regola e la potenza per poter attraversare il Tirolo senza avere naturalmente nessun ostacolo, e attraversando il Tirolo avrebbe potuto potenzialmente minacciare la Baviera che confina col Tirolo. Questa era l'idea dello Stato Maggiore tedesco. Ragione per cui la Germania, pur non avendo dichiarato guerra all'Italia, almeno nel 1915-16, sì, dopo l'aprile di Gorizia, però schierò il famoso Alpenkorps, di cui faceva parte anche un certo tenente Erwin Rommel, che poi si distinse nella seconda guerra mondiale. E tra l'altro non era nazista, assolutamente. Rommel si fece il suo dovere, ma non lo pensava come Hitler, come tanti altri. Ebbene, di fronte a un ultimatum, perché sapevano già i servizi segreti che c'era questo schieramento potentissimo, questo corpo di spedizione, no? Che comprendeva il fiorfiore dell'esercito tedesco, armatissimo, aveva una potenza di fuoco notevolmente superiore a quella di una pari unità dell'esercito italiano austriaco, però fu determinante anche nel risolvere certe situazioni militari, almeno all'inizio del conflitto. Questo Alpenkorps, comandato da un certo von den Mensinge, rimase in Italia, creando dei danni notevoli, fino all'ottobre, che poi fu spostato, mi pare, non so se era nel fronte occidentale, forse, del Mensinge. Poi c'è un'altra questione. Finita la guerra, e poi mi introduco nel settore dolomitico, a proposito di guerra blitzkrieg, perché addirittura la demagogia italiana sfiorò il ridicolo, perché si proclamò che l'esercito italiano doveva fare una passeggiata fino a Vienna, potete immaginare, insomma. Doveva farsi una passeggiata fino a Vienna, invece diventava una guerra di punizione vera e propria, perché le armate, almeno quelle che si, attualmente, su Bisonzo per esempio, diventò una guerra di punizione logorante, sfibrante, quindi praticamente si doveva convivere con i camerati o con i comilitoni in trincea. E voi potete immaginare, la vita in trincea significava dividere non solo gli effetti dei bombardamenti, ma anche i pidocchi, la disenteria e varie malattie tipiche. Molti si suicidavano o si sparavano o si automutilavano, non so se avete visto il film Uomo di Contro, e ve lo dice lunga sul fatto che si automutilava, veniva processato per direttissima e mandato davanti al tribunale militare. Quindi ci furono moltissimi che morirono per autolesionismo, altri venivano fucilati perché chi si rifiutava non è che venisse, magari non usciva fuori il nome, ma ne prendevano 10 a casaccio e li mettevano nel volo e li fucilavano. Questa era una tradizione tipicamente francese. E poi si arrivò al punto che, finita la guerra, il 4 novembre del 1918, vedi il bollettino della guerra di Armando Diaz, 4 novembre 1918 l'esercito italiano alcune unità dell'esercito italiano si trasferirono ad Innsbruck per controllare, innanzitutto per verificare la potenzialità degli arsenali che ancora contenevano parecchie armi, poi per disciplinare l'ordine pubblico e per seguire, diciamo, in modo molto discreto l'evoluzione della neo-repubblica austriaca. Là ci fu una serie di trasferimenti di armi che poi furono consegnati ai serbi, dicendo che stavano organizzandosi diversamente. A un certo punto, quando la delegazione italiana che si trovava a Saint-Germain-en-Laye per discutere e definire le clausole dell'armistizio, si fece viva una delegazione tirolese che rappresentava tutto il popolo tirolese, compreso quello del Tirolo meridionale, e a titolo del tutto informale si rivolse a un ufficiale, tu sai, un ufficiale degli alpini, non ricordo il nome, dichiarando che il Tirolo tutto si sarebbe messo a disposizione e quindi sotto la sovranità del Regno d'Italia se fosse stato conservato integralmente, come la storia avrebbe voluto. E l'ufficiale non poteva rispondere, non aveva titolo, poteva solo condividere, senza però affermarlo, le giuste aspirazioni di questi tirolesi. Perché frantumare il Tirolo? La ragione per cui poi fu una tragedia, quella, voi sapete cosa avvenne poi negli anni successivi, dopo De Gasperi Gruber. E questa notizia non fu, naturalmente, anzi fu sì trasferita a Parigi, però chiaramente i responsabili della delegazione italiana dovettero rifiutare una proposta del genere, seppur informale, perché avevano già sottoscritto un impegno con le potenze d'intesa, quella non poteva essere assolutamente modificato, anche se gli Stati Uniti avrebbero voluto farlo. Quindi qui praticamente si sa, e poi l'esercito italiano praticamente rimase fino a un paio d'anni, rimase in pratica ad Innsbruck, poi ritornò naturalmente dietro le proprie frontiere, e qui nacque sulle polveri del grande impero asburgico una piccola repubblica di 8 milioni di abitanti allora, di cui 2 milioni solo a Vienna. Fronte delle Dolomiti. Le Dolomiti rappresentavano per gli austro-ungarici, soprattutto per i tirolesi, un baluardo naturale, con il quale o dietro il quale difendersi dalla potenzialità, dall'aggressività dell'esercito italiano, perché a un certo punto vi furono molti italiani che si chiesero: ma come mai, dico, qui si parla di Trento e Trieste, qui stiamo qui già invadendo il Tirolo, cioè, qui ci sono, queste notizie vengono dai diari di guerra, perché le fonti autentiche sono i diari di guerra e la cronaca del tempo. Ricordate che la cronaca del tempo era illustrata, perché c'era un grande coefficiente di analfabetizzazione in Italia, soprattutto nel centro-sud, e quindi solo attraverso le immagini poteva avere l'idea dell'andazzo della guerra. Poi ci furono anche le scene strazianti, che venivano naturalmente nascoste alle famiglie dei soldati mandati al fronte, e questo per evitare che una nazione bellicistica diventasse una nazione naturalmente di pace, una nazione che doveva assolutamente essere una nazione bellica, che doveva affrontare la guerra contro gli austro-ungarici in nome del completamento dell'unità d'Italia, di Trento e Trieste, e poi si aggiunse anche sul Tirolo, si aggiunse le altre concessioni, vedendo comunque i patti, i trattati di pace non è che provengano dal cielo o dagli dèi, vengono studiati e presi in considerazione a tavolino, si riuniscono le parti in causa e decidono. Semplicemente questo a me, questo a te ti va bene, altrimenti si raggiunge il solito compromesso. Cioè sono frutti di compromessi politici internazionali. Ed è chiaro che chi vince la guerra impone anche la toponomastica, oltre naturalmente un processo di italianizzazione, come è avvenuto qui, nella provincia di Bolzano. Perché subito dopo la Grande Guerra, poi nel 22 entrò il fascismo addirittura, quindi è chiaro che la toponomastica bilingue, poi la presenza sempre più massiccia attualmente di rappresentanti del governo italiano, a cominciare dai carabinieri, dalla polizia, dai gendarmi, dalla finanza, dalle scuole, via dicendo, questo processo di italianizzazione poteva andare bene fino a un certo punto, ma non è che cambiando la toponomastica si possono cambiare e trasformare le coscienze, soprattutto la cultura e la lingua. La cultura e la lingua e l'etnia restano quelle che sono, non si cambiano assolutamente. Anzi, io credo che sia un pregio. Voi pensate, domani ci sarà un'Europa con una Costituzione unica che assorbirà le Costituzioni di tutti gli Stati membri. Ma l'Europa sarà bella, secondo me, per la sua diversità. È quello che esalta ancora di più l'Europa. perché a me piace andare in Francia e sentire parlare francese, in Germania tedesco, in Italia italiano e via dicendo. Ecco, diciamo che queste peculiarità, chiamiamole etniche, identificano la cultura e la lingua di un popolo, la storia di un popolo, chiamati gli usi, costumi e tradizioni. Beh, questi secondo me devono essere conservati, altrimenti diventa un caleidoscopio come in Brasile, non si capisce più da che parte si va in Brasile, se sono metici, se non sono metici. Mantenere la propria identità è importante e fare dei confronti fra gli uni con gli altri, ma certo, almeno da quando è nata la comunità europea, qui parliamo degli anni 50, quando è esplosa una guerra, a parte quella sui Balcani, è stata una parentesi, no, conflitti mondiali qui da noi, mi auguro che non succedano più, mai più. Sul fronte delle Dolomiti parliamo di Cortina da un pezzo, che faceva parte dell'impero Asburgico, come Livino Longo del Col di Lana, Buchenstein, come Colle Santa Lucia. Detto, queste tre unità furono ed erano forzatamente trasferite dalla provincia di Bolzano a quella di Belluno, spaccando anche là un'identità culturale centenaria che era quella dei ladini della provincia. Questa è la realtà. E ad ogni modo questa realtà naturalmente si riflesse anche poi, successivamente. Ma se noi andiamo per esempio nelle comunità di lingua ladina amministrate dalla provincia di Bolzano, vediamo che esistono le istituzioni ancora come le scuole di ladino in Lombardia, e questa è una bella cosa, sentire parlare il linguaggio locale, è molto significativo. Se andiamo invece nel locale di Taladini della provincia di Belluno, non esistono, almeno adesso non esistono, c'è un tentativo per farli esistere, ma bisogna un po' cambiare la Costituzione, la quale stessa Costituzione prevede l'autonomia, il federalismo, ma il federalismo in senso come lo voleva Carlo Cattaneo, non un federalismo così, fatto così ad occhio di bue, come si dice. Allora, queste tre località che appartenevano all'Astria, Cortina, facciamo l'esempio di Cortina. Cortina fu occupata il 29 maggio 1915 dagli italiani, ma non a seguito di bombardamenti, perché gli austriaci si erano ritirati sulla colla d'Ancona, Fonpausa, Zoghe, che è una località a qualche chilometro a nord di Cortina, per evitare disagi alla popolazione, perché se stiamo qua ci bombardano, qui ci vanno in mezzo i civili. Un distaccamento di fanteria, a cui comando c'era un certo tenente Matteo, raggiunse attraverso il passo Tre Croci Cortina d'Ampezzo, in piazza che adesso non si chiama più Piazza Venezia ma Piazza De Bona è stato uno dei più grandi backsteiger, cioè alpinisti della Conca Pesana, e vide su questa piazza degli anziani che parlavano fra loro e si avvicinò, scusate ma noi non capiamo, noi italiani, perché voi che parlate una lingua italiana e avete una cultura italiana ci fate la guerra. Uno di loro rispose che la guerra era tra loro, e comunque loro erano lì per uccidere anche i loro figli ampezzani che militavano nell'esercito austriaco. Allora aggiunse questa notizia l'ho avuto leggendo alcuni libri di uno scrittore locale d'Ampezzo, che è andato alla ricerca attraverso le famiglie di documenti storici. E allora aggiunse il tenente Matteo, noi siamo qui per liberarvi. E questo rispose, non so da chi volete liberarci, ma noi francamente stiamo bene così, insomma, non capiamo perché questa conflagrazione proprio che coinvolge anche noi, che da tempo, da 450 anni, siamo amministrati dall'impero asburgico, il quale riconosce a tutte le etnie che compongono l'impero la propria specificità culturale e linguistica. E questo rimase un po' di stucco e cominciò a pensare, va bene, poi le cose andavano come andavano, voi sapete poi. Nel 16 ci fu naturalmente la reazione dell'esercito russo che sconfisse l'esercito austriaco, e poi nel 17 ci fu la rivoluzione d'ottobre, a seguito della quale la Russia si chiuse a Riccio per consolidare il potere di Soviet e lasciando via libera agli austro-tedeschi, i quali si scatenarono soprattutto a Caporetto, naturalmente sfondando un po' tutti i fronti. Anche se poi probabilmente secondo alcuni storici militari nessuno poteva fermare quell'impeto furioso, insomma. E poi pare che ci fossero lì, le cose potrebbero essere un po' definite una volta per tutte, delle responsabilità anche riconducibili a un certo Badoglio, insomma, per dirla francamente. Insomma. E ci sono diversi scritti che lo indicano come uno dei responsabili, però il fatto è che in quel momento l'esercito austro-tedesco non fermava nessuno, era stata ben congegnata lo sfondamento. Dopo ci sono persi nel nulla, perché più si avvicinavano al Piave, a Papadopoli, eccetera, e più ci allontanavamo dai centri logistici, quindi non veniva neanche più rifornimento di quello che era necessario alle unità che operavano in quel settore per poter sopravvivere. Poi bisogna aggiungere che si aggiunse anche la fame, si aggiunse. E devo dire, questa per me è, lo dico onestamente, intellettualmente, che l'esercito, non è che l'impero asburgico fu sconfitto dall'esercito italiano, fu sconfitto da una serie di circostanze, certo c'era una coalizione contro l'esercito austro-tedesco, ma soprattutto fu sconfitto per il crollo del fronte interno, quando interi reggimenti o compagnie o comandi si rifiutarono di eseguire anche sul grappa, esattamente sul grappa, gli ordini dei due ufficiali, perché giustamente pensavano a salvaguardare l'Ungheria, a salvaguardare la Cecoslovacchia, che erano già in crollo in sostanza. E quindi voglio dire che queste defezioni, più la fame, più la non più convinzione di andare avanti, no? Misero il grande impero sul tappeto, che noi comunque come storici lo consideriamo e lo consideriamo ancora un grande impero. Adesso non dico che sì, certo lui si considerava il precursore del Sacro Romano Impero, però riuscì a tenere praticamente 11 stati, vero? 11 etnie diverse sotto un'amministrazione oculata, perché ogni popolo poteva parlare la propria lingua, professare la propria fede, e quindi naturalmente anche la cultura doveva essere specifica, cioè la propria, non era una cultura unitaria come fece il fascismo, che bisognava unificare tutto, o come il bolscevismo, che bisognava unificare tutto. E soprattutto abbiamo detto, cioè, bisogna anche sottolineare il fatto che le grandi dittature si distrussero da sé, fu un atto masochistico quello di dichiarare guerra alla Chiesa, alla fede. Non c'è nulla di peggio, vero, che mettere il popolo, cioè impedire al popolo, vero, di professare la propria fede. E la storia ce l'insegna. Chi ha chiuso le chiese poi è stato a sua volta distrutto dalle sue stesse scelte. Sul fronte dei Dolomiti, che poi chiaramente la guerra continuò poi sul Grappa, e sul Grappa devo dire anche qui onestamente, sul Grappa, penso, io credo che gli italiani si sentirono finalmente sul Grappa figli di una stessa nazione, di una stessa madre, perché non si trattava di Tirolo, ma si trattava di difendere un pezzo notevole dell'Italia, e lì naturalmente si dettero da fare per evitare, insomma, il peggio. E bisogna prendere atto di questo, una grande fratellanza che si manifestò soprattutto nell'emergenza. Qui se riescono a travolgersi arrivano in pianura e chi si è visto si è visto. Invece non fu così, ma non fu così anche grande, soprattutto a causa di due fatti importanti, come dicevo prima, la rivoluzione bolscevica da una parte, l'ingresso nel 17 degli Stati Uniti, che fu determinante nella conclusione del conflitto. Cosa resta? Per esempio qui abbiamo, ecco, l'importante è, per esempio, anche qui nella vostra regione, vero, si mantengono l'identità, ciascuno la propria identità, ma all'interno di questa identità e di queste esigenze, di queste realtà secolari, vero, linguistiche e anche naturalmente usi, costumi e tradizioni, quindi folcloristiche, no? Ci sia un dialogo aperto e sincero all'insegna dell'amicizia, della cordialità, della solidarietà, della pace. Questo è importante, perché essere di etnia diversa non significa combatterci, ci mancherebbe altro, ma essere solidali, cioè, al principio di tutto ci sta la morale, ci sta l'etica e anche la confessionalità, perché bene che il popolo della provincia di Bolzano è fondamentalmente cattolico, e questo molto, non sono qui perché rappresento la Chiesa, anzi, ma io anch'io sono cattolico e ci tengo ad esserlo, e quindi il cattolicesimo dovrebbe fare da matrice. Voi sapete che il sillabo si è sempre battuto contro la modernità, perché è nemica della Chiesa, la Chiesa è sempre stata conservatrice, questo non lo dico io, lo dice la storia, ma la Chiesa ha avuto sempre una grande attrazione sui popoli, e i popoli si difendono, e non è un'utopia, perché avere fede significa credere in qualcosa che naturalmente si trasfigura dalla realtà terrena, perché sarebbe ben poca cosa se la nostra vita si riducesse a quello che si manifesta ogni giorno e finisse qui, sarebbe ben poca cosa. Allora, senza arrampicarsi sugli specchi, sperano in un qualcosa di diverso, naturalmente manifestandosi secondo le direttive cristiane, adesso non dico le direttive di questo Dio, di quello, le direttive cristiane, e c'è dimostrare soprattutto grande solidarietà, grande sensibilità per gli altri, cioè soccorrere chi ha bisogno, dare una mano e distruggere una volta per tutti i sentimenti antietnici nei confronti degli altri, qualsiasi etnia sia, anche quella ebrea, per carità, possiamo convivere con gli altri, e se gli altri hanno bisogno di noi dovremo intervenire e dare loro una mano, sperando che gli stessi facciano anche qualcosa per noi. Poi c'è un grosso problema, quello attuale, non è che esca dal seminato stasera, c'è il problema dell'immigrazione, voi sapete, della tragedia che è successa pochi giorni fa, vero? Quindi questa è una tragedia purtroppo che si manifesta. Quando qualcuno dice ma siamo stati anche noi emigrati, emigranti, scusate il termine, emigranti, sì, ma erano diverse le condizioni, perché noi andavamo in Australia, nel Sud America, nel Nord America, nel Canada, ma andavamo perché eravamo sicuri, erano nazioni che richiedevano manodopera, erano di una vastità infinita e quindi avevano bisogno di manodopera soprattutto europea, anche per bilanciare un po' gli aborigeni, non solo gli indiani, ma anche gli schiavi negri che poi divennero cittadini americani. Ma allora le condizioni erano completamente diverse. Adesso qui abbiamo una situazione insostenibile, abbiamo proprio processi di migrazione che si riversano a Lampedusa sul nostro continente, vero? Dicono che poi vanno, ma io credo che vanno pochi dove vorrebbero andare, dove noi viviamo una situazione estremamente difficile, perché se sentiamo i media ufficiali qui ci sono quasi 4 milioni di disoccupati per non aggiungere i cassi integrati. Allora, in una situazione così degenera, una situazione così precaria, non si capisce perché noi possiamo accogliere tantissimi immigrati, perché a cui noi poi dobbiamo provvedere. E quando si lancia l'appello all'Europa, perché non l'hanno fatto prima, potevano farlo prima. L'Italia è una penisola, è uno stivale, non può contenere più di tanto. E poi c'è il problema anche della criminalità organizzata, perché basta leggere i giornali e si legge che molti sono stati fagocitati anche dalla criminalità organizzata. E che dire delle moschee? Le moschee naturalmente sorgeranno sulle ceneri del cristianesimo se andiamo avanti come stiamo andando avanti, perché il tasso di incremento demografico degli africani. Ma è meglio che lei parli della prima guerra. Sì, no, ma io dicevo anche questo. No, ma questo è un problema che riguarda tutti noi. Nel senso su quello che lei sta dicendo, quindi per favore le faccia la conferenza sul suo libro. Sì. Sì, io non è che esca dal seminato, sto parlando di cose contemporanee. No, resta alla sua opinione che io rispetto, che non è la mia ovviamente. Le opinioni, però, come lei mi dice, sono opinioni. Il libro presenti quello e non si allarghi, perché altrimenti creerebbe, costringerebbe ad intervenire in maniera ancora più radicale o ad alzarmi e andarmene via. Però siccome mi interessa l'argomento del suo libro, quindi per cortesia se lei... Va bene, d'accordo, sono d'accordo con lei. Io intervengo sempre in questi termini anche in tutte le altre mie assemblee, è la prima volta che mi sento contestato, vabbè, può darsi che sia contestato ancora, le do atto per carità. D'accordo sul taglio che lei stava dando sulla recente tragedia e il problema dell'immigrazione, perché chiaramente chi fugge da una guerra o dalle dittature, mi scusi tanto, non ci sono, recriminazioni ci devono essere. Perché anche mio nonno è andato in America, è andato da emigrante, si è fatto la traversata, per poco annegava, è stato salvato, è andato a New York, è rimasto 2 anni e poi è ritornato indietro. Perché gli ha detto, io sono un artista, io faccio restauri e qui mi fanno spaccare pietre. Allora ho spaccato pietre per 2 anni e poi sono ritornato a casa mia. Però voglio dire, non voglio tornare nella mia storia personale, dico chi fugge da una guerra, dalle dittature, pensiamo solo anche noi nella guerra, chi è riuscito a fuggire quando qui da noi c'era la dittatura. È stato fortunato, è andato in un altro paese, è stato accolto, forse perché finanziariamente se lo poteva permettere, ma non tutti hanno potuto fare così. E allora io penso a quelle famiglie da quei luoghi che si indebitano e pagano per far vedere i loro figli dove c'è una speranza che muoiono. E poi non è vero, perché noi qui abbiamo l'Austria che ha bloccato, non li vuole più, quelli che vogliono raggiungere le loro famiglie. Allora voglio dire, era per questo che c'era il mio dissenso. Perché un confine austriaco che blocca, va bene, i profughi che vogliono raggiungere i loro parenti che si trovano nel nord Europa, mi scusi, è inaccettabile. Perché noi qui, il nostro è un paese di transito, tutto sommato, perché lo sanno anche loro che non c'è molto lavoro. Però se vengono è perché sanno che c'è qualcuno dall'altra parte. Per carità. Allora voglio dire... Io direi che è meglio allora continuare con l'argomento centrale, anche perché se dovessi allargare il discorso direi delle cose che lei non accetterà mai e che io sono a conoscenza come storico. Sì. Allora, ritornando... Va bene, li rimanda indietro, li rimanda in Italia, cioè non li fa entrare, li manda in Italia, anche se loro sanno dove devono andare, beh, allora mi scusi tanto, questo è un problema più alto di noi, perché a livello europeo che devono risolvere questo nodo. Ma ce ne sono tanti altri nodi da risolvere. Non vogliamo più dire che ci vengono a portare via lavoro, sono persone che... Io non ho detto che ci portano via lavoro. Chi fugge da guerre e da dittature sì. non hanno da perdere nulla, va bene, e non hanno prospettive, è l'unico atto che possono fare, chi se lo può permettere. Sì. Ma il discorso che lei ha limitato al professore adesso se l'è preso, lei ha fatto proprio il mio intervento, allora smettete la discussione, lasciami continuare. Diciamo così che la biblioteca è un posto libero e allora si può anche esprimere. Adesso ringraziamo anche il professor Giacobbi che ci ha aiutato. Non faccio mica politica, invece che aspettare magari alla fine abbiamo avuto degli interventi, uno scambio di opinioni. Ecco, io volevo dire utile, a proposito, sì. Perché è sempre interessante, nessuno è mai stato impedito e mai verrà impedito, ecco, nell'esprimere il proprio dissenso e la propria... La mia opinione, però rispetto anche quella degli altri. Esatto, quindi qui c'è un... Poi ognuno faccia le proprie riflessioni. Che si può fare. Però se mi può permettere, io lo so molto più lunga di lei, sta facendo qua. È meglio chiudere l'argomento. E parlando, scusi signora, lei alzava la mano. Torno in tema di guerra negli altri. Lei ha detto prima, se non ho capito male, che gli austriaci, le truppe austriache, avevano lasciato Cortina temendo che potessero arrivare bombardamenti. C'erano i bombardamenti allora qua? Per evitare i bombardamenti. Come? Per evitare. Sì, ma bombardamento non con l'aereo. Con l'artiglieria. Il quartier generale a Volca di Cadore al Pio Decimo. Sì. Però, al passo di Falzarico, quindi poco dopo Cortina, c'è un enorme bunker. Ma guardi che siamo dopo ampiamente il 24 maggio lassù, a Passo del Falzarico, come le dici, le Cinque Torri, il Castelletto, c'era l'artiglieria che sparava anche da Intra e Sassi, sparava verso Nuvolao, Laverao, eccetera. Altre artiglierie che sparavano verso il forte in Tre Sasse, gli dicevano no, ci sono tante particolari. Poi le artiglierie arrivarono dopo, però si sparavano a Misurina, per esempio su Col dell'Angelo, e gli austriaci avevano sul Monte Rudo, sul Monte Specie, poi Monte Panna. Monte Panna, eccetera. Sì, voglio dire che le artiglierie sparavano, come sparavano già le notte? No, ma dico, erano attestati lì. Sì, erano attestati lì. Ci sono ancora le testimonianze. E gli italiani avevano un canone 365, di calibro 365 in Val Marzon. E quella valle che parte da Auronzo e arriva fin su alle tricimi di Lavaredo, versante sud, cioè versante Italia, diciamo, no? Per fare caso. Proprio c'è stato più o meno nello stesso periodo che arrivò Carlo I d'Asburgo a parlare delle sue truppe, di resistere, eccetera, eccetera, e anche Vittorio Emanuele arrivò a Montepiana nel 1917 e la sua presenza naturalmente incentivava i soldati ad andare avanti in qualche modo, no? A Montepiana devo ricordare che sopra Misurina ci furono circa 13.000 caduti, per non parlare dei dispersi, per non parlare di chi si gettò nel vuoto, per non parlare dello scatenarsi di elementi naturali, perché si calcola che addirittura il 65% dei decessi fu dovuto a uno scatenarsi degli eventi, cioè le slavine, l'inverno, ma l'inverno i fulmini, le saette, e si parla addirittura, hanno fatto il gelo certamente, chi veniva ferito a quelle altitudini e a quelle condizioni meteorologiche, non aveva scampo certamente, non c'era nessun intervento, ma in pianura ci fu tutta un'altra organizzazione, comunque voglio dire che fu una guerra di posizione, ma fu una guerra in cui il nemico per entrambi gli schieramenti era la natura in quanto tale e le condizioni atmosferiche proiettive, perché i cambi erano successivi, eccetera. Però come potete immaginare, ancora adesso ci sono dei volontari che ogni anno vanno a Montepiana nel mese di agosto per cercare dei reperti bellici, e trovano purtroppo ancora delle ossa umane che vengono poi inumate nel sacrario di Cortina d'Ampezzo. Quindi, dico, al di là di tutto, i politici fanno le scelte, no? A pagare sono i popoli, no? Perché chi vuole la guerra si defila e sta dietro le quinte, chi invece non la vuole va in prima linea. E se voi vedete di Emilio Lusso, Uomini contro, vedete Orizzonti di gloria, che qui non ho mai presentato, che io lo proporrei, di Stanley Kubrick, favoloso, e voi vedete All'Ovest niente di nuovo, In Western Nils Noyes, però vi rendete conto effettivamente che era il popolo che pagava, e le famiglie, e l'intera nazione, l'intera gioventù bruciata per il volere dei potenti della terra, in sostanza, no? Ecco, allora lì per vedere quel film ci sono delle scene addirittura raccapriccianti, che uno non si rende conto, perché pensate alla fucilazione di 10 soldati scelti a casaccio, perché ci fu un ammutinamento, ne prendono 10 a casaccio, li mettono al muro, anzi ai pali, li bendano, i carabinieri li bendano, e poi a un certo momento uno riesce a slacciarsi dal palo e scappa, uno di questi destinati alla fucilazione. Un ufficiale lo rincorre, gli spara e lo ferisce mortalmente. I carabinieri lo prendono, stava morendo, era già morto, e lo legano ancora al palo e lo fucilano. Questa è la logica di sempre, certamente. Si parla poco delle decimazioni e si parla anche poco del ruolo della donna durante il conflitto, che dovete sostituire l'uomo al fronte, non solo nelle fabbriche, ma anche nei servizi, eccetera. Si parla poco della Croce Rossa italiana, che meriterebbe un capitolo, se altro che un capitolo, molti capitoli. Quel sentiero che si chiama Passo Rolle, la via del Panna, Passo Fortoi. Bordoli, sì. Era anche percorso dalle ragazze che portavano il pane ai soldati. Sì. Nelle grotte di ghiaccio, vero? La via del pane, sì. Ma anche nella seconda guerra mondiale c'è stato questo. Non è? A me la raccontata così. Sì, ma comunque c'è quella via, là. No, vuol dire che c'erano le donne che anche nella seconda guerra mondiale aiutavano gli uomini naturalmente con dei vetovagliamenti, eccetera. Questo è vero, sì, ce ne furono parecchie. E gli austriaci li chiamano Markentenderi, che fanno parte del gruppo degli Schützen, ecco, anche il gruppo degli Schützen. Ecco, quello che noi aspichiamo, noi storici, aspichiamo che ci sia una totale pacificazione, e che si spezzano tutti i pregiudizi nei confronti degli uni, per gli uni nei confronti degli altri. Perché non si può andare avanti con i pregiudizi sono una distruzione totale, insomma uno deve avere le idee chiare, ed ecco importante anche educare i popoli, educarli. Cioè, chiaro che mantenere basso l'indice di alfabetizzazione significa governare meglio, ma questa è una infamia, è vero, che le cose siano così. Oggi abbiamo un buon indice di alfabetizzazione, ma quando l'esercito italiano entrò in guerra l'indice di alfabetizzazione era molto più basso di quello austro-ungarico. Questi sono i dati di fatto, non è che per carità, questo è come dire, insomma, si poteva meglio manipolare la popolazione, insomma, perché ripeto, il Parlamento allora era nella sua maggioranza, era gelitiano, era contro la guerra, ma furono i pochi futuristi, cioè una minoranza qualificata che si impose sulla maggioranza, anche perché c'era un trascinamento, pensate solo ad Annunzio, dicendo, e poi Cesare Battisti, e poi Damiano Chiesa, Fabio Fizio, eccetera, e anche quelli certamente, vabbè, poi altri capitoli qua, perché allora bisognerebbe aprire, c'è un libro che io ho preso tempo fa a Trento, dove c'è scritto eroe o traditore. Poi alla fine io mi sono convinto che era un po' contraddito, perché era convinto di quello che voleva, perché se lui aveva avuto un'educazione che lo portò a praticare e quindi a frequentare le scuole ufficiali, no? E diventare ufficiale dell'esercito austriaco, dell'esercito asburgico, ma poi successivamente cambiò idea perché furono condizioni tali che lo convinsero ad essere diverso di quello che era stato prima, perché sentì un'altra campana a cui lui si identificò e aderì. Quindi io non lo considero un traditore, assolutamente, personalmente, perché ci sono tante considerazioni. Lei sì, invece. Sono trentino di Mezzaferrona e ho avuto i parenti, i primi nella prima guerra mondiale, che per noi è iniziata nel 1914. Giusto. Quindi per voi mi pare che 15. Il Veneto, no? Sì, allora, il Veneto era ancora fuori, sì. Allora torniamo a Cortina, ormai nei diversi volumi italiani e tedeschi, per esempio mio padre era lì nel 17, sì. Non avevano non solo da mangiare, nessuna munizione, c'era solo gli Standschützen, eccetera, che poteva, quello che ha sparato al generale era uno Standschützen, no? che saliva dal colatore. Cantore. Sì. E gridava giù, dai giù, perché li gridava anche in italiano. Guarda, io l'ho sentito da un vecchio campesano, un certo Colli, che dice più questo che mi dice. Riferito non solo mio padre, i miei compaesani. Cesare Battisti, le posso riferire, se lei ha presente la scena del patibolo, quando... Sì, sì, sì, la presente. Cioè, il maior lì, che erano del mio paese, un certo Verranoi, sì. Ecco, era considerato, diciamo, dai commilitoni austro-ungarici, dai nostri, era considerato un traditore. Ossia, anch'io, sì, è bene un eroe, eccetera, però lui avrebbe fatto molto meglio con le sue idee, diciamo, a restare fuori dalla lotta armata, perché lui poi era venuto sopra il Rovereto e sparava contro di noi poveri trentini, e c'è poco da fare. Ma io non ho addosso, no? Ecco, se lui fosse rimasto, con lui hanno potuto fuggire tramite riva, i sentieri, eccetera, solo un 200 e rotti, massimo 300, che hanno potuto espatriare, maestri di scuola, eccetera. Sì, è vero questo, sì. Invece, 60.000 trentini hanno dovuto fare i Kaiserjäger. Tutti i miei parenti, il primo morto del mio paese, sì, erano sì. Kaiserjäger, sì. No? Forza. Ecco, per forza, altrimenti c'era un'impiccagione. Mio padre era fuggito da sopra Cortina dalle Tofane, nel 17 era riuscito. Dopo aver fatto la Galizia, eccetera, con tutti i miei parenti, non avendo più armamento, eccetera, è impossibile la difesa, l'impero ormai si stava sgretolando. È puro dire la vittoria di Caporetto, hanno fatto proprio l'ultimo respiro, ma la presa di Gorizia li ha battuti per terra. Poi, lei parla della presa di Gorizia? Che su Caporetto, oltre Badoglio, c'era totale imperizia degli ufficiali italiani. Ci sono dei libri dello Stato Maggiore, sia italiani che tedeschi. Guardi, un traditore quel Badoglio lì, no? Che era a Padova a curarsi il fegato, anzi, sulle vie venete. Ecco, mentre non aveva curato le prime... Era coperto da sua maestà. Tanto è vero che hanno sfigurato Caporetto, che era comandante della seconda armata, ma lui lo lasciava in pace. Lo sapevano che c'era dall'altra. Lo sapevano che c'era l'armata. C'era perfino il Rome. Lo sapevano. Ma un momento, è proibito anche adesso. Però gli stati maggiori italiani sapevano che c'era la concentrazione dall'altra. E l'hanno lasciati venire. E quello non era proibito allora. Questi sono traditori, sì, certo che il gas è la bomba, eccetera. Lo stesso anche in Francia sulla ma la si perde, 100.000 morti per il gas. Sì, è sull'Ortigara. Il gas non c'era il gas. Ma no. Insomma, la pace era stata organizzata dai gas. Se mi lascia parlare, le dico cosa è successo. Sì, abbiamo i libri. Allora, voi tutti conoscete Rizzoli, che a Bolzano i nostri. Sì. Il suo parente, poi è da parte italiana e tedesca, erano sull'Ortigara. Sull'Ortigara gli ufficiali italiani, i carabinieri, spingevano in su i poveri soldati, perfino i recalcitranti napoletani, eccetera, i quali dicevano ai veneti: la guerra l'avete voluta noi e noi non la facciamo sta guerra. Insomma, con i carabinieri dietro, sparando, eccetera, hanno dovuto salire sui sassi dell'Ortigara. I Rizzoli e Cì, che erano sopra sulle trincee austro-ungariche, a un certo punto sono venuti fuori dalle trincee, lì gridavano: tornatevene giù, tornatevene a casa, perché qui abbiamo le mitragliatrici, sì, hanno fatto una carneficina a quei primi. Basta guardare, leggere Uomini contro, ma questo, il fatto che gli austriaci con il megafono si rivolgessero ai generali italiani per far ritirare i loro soldati è perché non avevano la possibilità di difendersi di fronte alle mitragliatrici austriache che avanzavano naturalmente dal basso all'alto, e loro a un certo punto si fermano anche qui a San Paolo. Si fermano e con il megafono si rivolgono agli ufficiali generali e colonnelli dicendo: fermatevi, perché qui noi ci rifiutiamo di sparare contro soldati non in grado di difendersi, perché loro dovevano solo salire e quindi la posizione è molto svantaggiosa. Posso concludere sinteticamente tutti questi ricordi, questi libri? Adesso c'è un fiorire nella provincia di Trento di tutti questi libri italiani e tedeschi, dal Kriegsarchiv di Vienna, no? Proprio, no? Centenario. Ossia, Trento era una città blindatissima, tutte le montagne con gli attorno avevano funivie, avevano mortai, le stanno riscoprendo tutte le postazioni degli obici ancora, migliaia e migliaia, un rifornimento enorme per fare la strafe in spedizione. Caduta quella che non si è riuscita a sfondare sulla slago, si sono un po' fermati e tutti i forti inutili di Lafroit, Lavarone, Luzern, eccetera, no? Tutti, delle, tutti questi enormi problemi d'acciaio inutili. Sì. Una... Mi scusi se la interrompo, io volevo solo estrapolare e poi concludo, altrimenti qui ognuno fa la storia. Però volevo solo dire che la guerra, io non la vedo, io e altri miei colleghi, come un conflitto fine a se stesso, ma cerchiamo di estrapolare le ragioni soprattutto e il comportamento della gente. Cioè qui si fa la guerra e prima di partire per il fronte, certo anche chi si rifiutava di indossare la divisa veniva passato per le armi, veniva processato, eccetera, no? Però nella guerra ci sono anche atti di solidarietà, addirittura fra opposte posizioni. Tanti italiani hanno aiutato magari di ripetare, certo, i confinanti, noi cadorini siamo confinanti con il Tirolo orientale, questo è vero, anzi si metteva la sua famiglia perché i giovani non guardavano le differenze naturalmente di confine, si sposavano, buonanotte, e si trovavano spesso coniati uno di fronte all'altro e non si sparavano certamente. C'è un filmato ripreso da alcuni operatori bavaresi che riproduce Alpini e Kaiserjäger nel mese di maggio del 1916 che giocano a palla di neve, in momento di tregua. Questo la dice lunga. E questo l'ho preso a Monaco di Baviera, in lingua tedesca, ma è una cosa incredibile. Vuol dire che la spontaneità, dire, ma cosa c'entriamo noi con la guerra? Cioè, bisognava farlo, eccetera. No? Quindi vediamo un po' l'aspetto, mi dica, sì. Dunque non abbiamo ben capito da tanto tempo, sì, nei primi mesi di guerra l'esercito italiano era superiore. Superiore al momento. Perché non sono andati avanti? No, no, era superiore, l'ho detto prima, che il grosso dell'esercito austro-ungarico si trovava in Galizia, è grosso. Quindi c'era alcune unità, per esempio a Brunico c'era Guiginger che comandava. Sì, perché l'esercito italiano non è andato in Valpusteria, per esempio. Mi sembrava di averlo detto prima, perché ci fu uno scambio epistolare, da quello che abbiamo saputo rintracciare noi, era tra il Ministero degli Esteri italiano e tedesco. Cioè il Ministero degli Esteri tedesco fece capire al Ministero degli Esteri italiano che non tollerava la presenza, lo sfondamento della linea, quindi l'avanzamento in Tirolo dell'esercito italiano, perché questo poteva rappresentare una minaccia alla Baviera, essendo confinante con il Tirolo. Ci fu questo scambio epistolare. Ecco perché ci fu una certa defaillance o comunque non convinzione. Non è che non si mossero perché non erano in grado di muoversi, come potevano muoversi? Non si mossero perché ci furono questi condizionamenti. La Germania aveva il terrore, il timore, cioè, che una volta occupato il Tirolo minacciasse anche le frontiere bavaresi. Questo era il motivo. Ecco perché. Come si spiega la presenza del Deutsche Alpenkorps? Sì, allora noi mettiamo le mani avanti e facciamo questo, lo sapevano naturalmente i servizi segreti italiani, come no, però la guerra non fu dichiarata all'inizio, insomma. Prego. Dunque, il generale Cadorna, noi continuiamo, dunque si legge che fu una persona, un personaggio estremamente negativo, no? Che aveva un forte disprezzo per le proprie truppe. È vero. Che fece un massacro inutile per conquistare Gorizia. E fu sulla questione di Gorizia adesso devo dirle una cosa. No, concludo subito. Sì, sì. Tanto è vero che fu rimosso e sostituito. Fu rimosso a Gorizia. Perché tuttora. Fu rimosso a Gorizia. Dopo Caporetto, sì. Dopo Caporetto. Perché se a una figura così negativa tuttora si dedicano strade e piazze? Cioè io non l'ho mai capito questo. Guardi che ci sono simboli, no? Anche in Russia ancora di Stalin. Di Hitler no, per fortuna, ma di Stalin c'è ancora qualche stato di Stalin. Io che ho trascorso le vacanze in Croazia, una decina di giorni, ho visto una statua, un certo Kalbic mi pare, che era uno dei titini più aggressivi, no, nei confronti degli italiani. Ecco, allora la città di Parenzo, se andate a Parenzo, nella Porec per i vero? Andate nel centro di Firenze e vedete questa statua enorme, no? Allora si vede questo personaggio che era un partigiano, allora molto naturalmente seguito, in cui si identificava allora il popolo croato, poi il grande gli slavi, eccetera, no? Con la sinistra una mitragliatrice e la destra la pistola. Si può immaginare che lancio turistico per Parenzo, insomma, una statua del genere. Eppure è ancora lì quell'individuo, non è che sia il simbolo della pacificazione, uno che ha un mitra da una parte e la pistola dall'altra. Questa è una cosa che mi fa inorridire e pensare che il popolo croato è soprattutto cattolico, di fede, perché io ho partecipato a una messa per una domenica in Croazia, proprio vicino a Parenzo, e io non ho mai visto una chiesa così stipata come quella croata. Una cosa incredibile, una cosa incredibile. Portano, soprattutto quello che mi ha colpito, portano i loro figli a messa, li portano tutti qui. Le chiese sono quasi semivuote, insomma, rispetto a là, una cosa incredibile, ma di una fede. E poi ci sono dei passaggi anche in italiano e in latino, perché la toponomastica in Croazia è italiano e croato. Prima la Serenissima Repubblica, prima ancora l'Impero, eccetera, ci sono tante testimonianze di Venezia, della Serenissima, eccetera. Quindi voglio dire, si viste a tutta l'Istria, insomma, ci sono diverse persone che parlano, moltissime che parlano italiano, se andate lì, per carità. E noi ci siamo trovati bene, non c'è la spiaggia come da noi, c'è il ciottolato, insomma, ma comunque il mare è sempre pulito. E soprattutto c'è grande disponibilità. La Croazia è da 2 mesi e mezzo che è entrata nel mercato comune, ma per entrare ufficialmente deve abolire un articolo della Costituzione, che mi pare sia un articolo ancora lasciato da Tito, insomma, dell'ideologia titina. Ecco, deve abrogarlo, cosa che farà, certamente, o che sta facendo, per poter entrare per il merito nel mercato comune europeo. Altre domande sulla guerra, sui Dolomiti? Sì, beh, certo, andiamo nel settore di qua, poi c'era anche il settore naturalmente della Damello, vi dicendo, anche lì ce ne sarebbero da dire. C'è da dire comunque che gli italiani non sono avanzati appunto perché c'era questo condizionamento della Germania, in questo senso, che per evitare il peggio si fermarono lì. Poi si disse che per inettitudine e per indecisione da donna rimosse Nava, che fu sostituito, non mi ricordo più chi c'era. Nava, no, fu sostituito da un altro, non mi ricordo più il nome dell'altro. Sì. So che Capello fu sostituito, non andarono via. Pecori Giraldi, esatto. Ma Capello, che comandava la seconda armata, quella su Disonzo, no? Fu proprio assicurato, e non l'altro, come si chiama, quello dell'8 settembre? Badoglio. Badoglio rimase, all'8 settembre rimase abbastanza in piedi Badoglio, voglio dire. Comunque le situazioni era tale che in quel momento nessuno fermava l'esercito austro-ungarico, tutto era organizzato, e poi sembrava che ci fosse una certa defezione, anche una certa stanchezza, perché se non erro mi pare che anche la brigata Roma lasciò a terra i fucili, così mi risulta dagli scritti, alcuni scritti, cioè una brigata che si rifiuta di combattere, non c'era convinzione assoluta, e questo facilitò naturalmente l'opera degli austro-tedeschi. Ah, lei doveva dirmi qualcosa? Sul paterno è morto Innerhofer, no? Innerhofer, sì. Come è morto? Ma è morto, si dice, ucciso da un alpino trevigiano, da una parte, è un po' la questione di Cadorna, insomma, no? Da un alpino trevigiano. E invece c'è un'altra versione che dice che una sventagliata casuale di una mitragliatrice che era nell'Inrich Rodri, cioè nella forcella di San Candido, vicino alla Torre di Tobi, quelle parti là, e lo fece secco, insomma, e lì non si sa ancora la verità, non si saprà mai. Sta di fatto che il tenente medico degli alpini, Berti, vero, lo fece soccorrere, issare con Andricello fino alla cima del Paterno, e lì gli alpini gli reso onore e lo lasciarono lì fino alla fine della guerra, quando poi andarono gli abitanti di Sesto a prenderlo e fecero un funerale ufficiale. E per questo bisogna dare atto che gli austriaci stessi descrissero gli alpini come veri, cioè come nemici proprio corretti, molto corretti e cavallereschi, esattamente. Sì, praticamente si gratificarono a vicenda, diciamo, questo, anche perché erano confinanti, insomma, lavoravano anche insieme, diciamo, ecco, questo bisogna dirlo, francamente questo bisogna dire, insomma. Altre domande sul fronte dei Dolomiti? Io vorrei rispondere a quel signore lì che ha detto che i meridionali non volevano fare la guerra. Noi abbiamo avuto 600.000 morti e 2 milioni di feriti. Sì, sì. quei 600.000 morti, la stragrande maggioranza erano meridionali. Sì. Sì, perché c'erano le maggiori unità, anche quelli che operavano nel settore alpino, erano di addestramento, 15 giorni di addestramento, e li mandavano subito al fronte a morire. Sì, sì, ma questo è un atto purtroppo. Sì, ma adesso non facciamo una questione insomma di parte. Stiamo parlando di costruire l'Europa, diamo l'esempio ai nostri figli e nipoti di costruire un'Europa degna. Per quanto riguarda il Tirolo, no? Perché Tirolo, volevano naturalmente che tutto il Tirolo, nord e sud, venisse annesso all'Italia. Sì, sì. Ma allora veniva meno lo scopo, perché eravamo entrati in guerra. Noi entrammo in guerra per avere un confine sicuro, le Alpi, un baluardo sicuro. Ma una volta che il Tirolo fosse entrato nel Regno d'Italia sarebbe stato più sicuro ancora. Dice? Sì, perché si spostava più a nord la difesa, non le pare, fino a Istria compreso, ne pare poco. Il confine naturale sono le Alpi. La dieta del Tirolo ha dichiarato attraverso i suoi rappresentanti di voler essere amministrata dall'intero Tirolo, purché il Tirolo intero rimanesse integro e non spezzettato. Con la Germania. Ma non importa, intanto i nostri. Lei parla di sicurezza, si sarebbe rafforzata la sicurezza, perché si andava molto più a nord. E forse sarebbe stato meglio così, il re sarebbe diventato conte del Tirolo, via dicendo. E il Tirolo sarebbe rimasto, e non ci sarebbero più stati quei bombardamenti, quegli attentati tralicci, quello che era successo. Purtroppo è stata così, insomma. Ecco, volevo dire che. Sì, mi dica ancora. Deve essere solidale per l'intervento. I libri dicono che ovviamente i meridionali avevano la guerra è vostra, diceva i veneti. Questo è, sono stati costretti. Ma sono quelli che hanno perso la vita. Sì, certo, sono stati costretti, allora, come i nostri 60.000 federeghi. I veri eroi sono tutti quelli che sono morti o che sono stati mutilati, vero? Quelli sono i veri eroi, quelli che hanno mandato a bruciare proprio nei campi di battaglia. E noi rendiamo sempre omaggio a tutti gli schieramenti che siano di qua e di là, perché meritano il nostro rispetto e ricordo di sempre. Perché noi quando andiamo nelle varie cerimonie, adesso 4 novembre, andiamo sia nei cimiteri italiani e sia nei cimiteri austriaci. Volevo solo dire una cosa, Cesare Battisti, tutti i suoi scritti immaginava il confine Secco a Salorno. Eccolo lì. E vorrei dire una cosa, io qui dei libri che parlano delle fronte dei Dolomiti, che sono tutti con fotografie eccetera, chi li volesse può comperarli. Questo è un libro che ho scritto io, con tanto di fotografie eccetera e introduzione, ma ci sono anche delle considerazioni di carattere sociale, etico, morale, religioso eccetera. Scusi, certamente posso aggiungere a quello che lei ha detto, sono tutti morti, noi vediamo la convivenza con tutti. Io una volta pubblicamente ho già detto che questo sarebbe a Bolzano, perché è il posto nostro, certo. Il nome della vittoria, perché sicuramente certo. Dalla vittoria c'è la sconfitta, certo. È già certo. Questo vittoria, monumento alla vittoria, e i morti dall'altra parte, morti della sconfitta, certo. Ma sempre per lo stesso territorio, certo. E perché ognuno ha seguito naturalmente le proprie idee, le proprie certo. Volontà, le volontà degli altri magari, però sono morti e sono stati sacrificati per gli interessi di grossi gruppi. Il monumento alla vittoria col nome di vittoria non sono mica ancora, ce li abbiamo ancora. Grazie. Grazie per essere intervenuti. Ripeto, chi vuole il mio libro, grazie a voi. Grazie. Chi vuole il mio libro può accedere qui. E...